perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, ti darà, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sangue. Lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te, sapore di te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore per te, fa che questo momento, amore mio, duri tutta una vita. Dolce amor mio, abbracciami forte, amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Amore, amore, amore, amore, amore, amore. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Se tu sei con me, se tu sei con me. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Io t'accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me. Un lampione blu, una strada e tu, ed un po' di luna suggeriva fare l'amore. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Non ti scordo più e ti do del tu, e davanti a casa ogni sera resto con te. Un lampione blu, un

potrai capire che hai corso tanto, ma sei rimasto sempre qui. Non sai. Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa. Gente che parla e che ripete solo parole e niente di più. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Parole, parole, parole, gridate nel vento e nel sole, promesse non più mantenute, speranze andate perdute, parole che son come fiori, ma finti e senza profumo. Parole e che vuoto mi resta in questa mia povera testa. Lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare, sentir la chitarra pa pa pa pa, che piange, che ride pa pa pa pa, e con le sue corde pa pa pa pa mi rima la vita. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parole, parole, parole, gridate nel vento e nel sole, disegni di fumo nell'aria, discorsi imparati a memoria, parole dipinte su muri, in bianco, in nero e a colori. Parole e che vuoto mi resta in questa mia povera testa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e

vuoi. Tu non le somigli molto. Cammina insieme a me. Il tuo viso adesso è bello. Tu sei bella come lei. Guardo la me. Quanto spazio intorno a me. Sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina, per il mio cuore. E splende il tuo sorriso sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amor. Tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tu sei per me. Sorriso sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amor. Tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tutto tu sei per me. Solamente il cuore, questa malattia, l'amore, incomincia questa età, non ha senso senza te. penso che potrai guarire. E mi sento già morire. Una cosa brucia in me, è l'immagine di te. Farfalla nell'aria più chiara, fra tanta gente infelice, felice sei tu. Nuvole nere nell'urlo del vento, comincia a pensare che un fuoco si è spento, ma la paura che senti lo sai che cos'è. Il cuore, questa malattia, l'amore. Non ha senso senza te. L'arcobaleno sorride nel cielo, dopo la pioggia ritorna sereno. Anima bianca c'è posto per me. Ciglia, è caduta una foglia. io corro abbracciato. Ci fermiamo un momento a riprendere fiato. E non c'è più bisogno di dire parole. Due ragazzi nel sole. Cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, dillo che mi vuoi bene, con mio, con mio, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa a tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Thank you. sull'eco del concerto che insieme ci trovò, riprenderò ancora la strada che mi porta a te. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. Vedrai lo sguardo che per me parlo e la mia mano che la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Ascolterai, accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le donne accendono il tuo cuore. Sorriso può bastare quando ti senti troppo giù. Via. Dietro quel trucco un po' volgare. sale che si confonde con la mia. Le donne quando è primavera diventan belle ancor di più, e la domenica mattina in piazza speri che qualcuna poi si accorga anche di te. Oh, Cindy Nera, oh, sole, ma vivono così. Oh, si intenderà. Quando quel figlio nascerà. Ah, le donne quante io ne ho avute, e quante ancora non lo so. Per una notte o per la vita, tenere amante o solo amica, ma senza te io